situazione qua. E quindi vicino al Cobra sta benissimo, ma vicino a Saturnetto fa una bella figura. Bella, bella, bella, bella, bravo. Almeno. Bravo, bravo. Ok, dai, fai girare. Avanti. Ehi, è rientrato Massi, vai Massimilia. K già positivo, già appena ripreso, dai. Ciao, buongiorno. E chi è? Io non sento basso basso. Chi è? Bobotti è. A me sono sceso dallo scambello, poi domani ti ho sentito, dai. Chi sei? Non ci ho preso. Tonino è. Come mai sta arrivando così basso? Perché ho fatto una cosa e sono domani a ripeto come era prima. Vabbè, dai, ti ascolto in mezzo al QRM, e prima mi arrivavi sette, cazzo, quasi lui, tre, vabbè, comunque dai, ti saluto con la buonasera. Buonasera anche a te, anche tu, state con 5, da nuovo che mi arrivavi, ovviamente, da quello che ho fatto io sì, tutti bassi. Ma hai fatto quello spostamento tu? No, ho passato l'antenna perché devo fare un altro lavoro, però domani la rimetto come era prima, le solito per altri due ritmi. Ehi, ehi, va bene, va bene. Avanti, Franco, riprendi. Ma è sempre con fare indietro. Comunque se vuoi comprare, conta per là, se lo vuoi, e te lo vendo, Mi interessa a me. Ma io c'ho una bricicletta, ti interessa. Franco, mi interessa a me. Interessa? Vieni, lo vedi. Se ti piace te lo porti via. Basta che non sia magnetico. Ascolta Franco, a me mi interessa qualche baracchino bello, mi interessa un microfono di amplificato e mi interessa altro. Per ingrandirmi la stazioncina mia. Il resto non sta più nulla. Non so magari camminare che devo, sto partendo, io ho già fatto il biglietto per aereo e sì, ci sono di nuovo partendo. No, di quella roba no. Cos'è che stavi dicendo? Ho detto, mi può interessare a me, basta che non sia magnetico. Un motore? A elettrico, sì. Pura. Magari qualche foto, già ce l'ha il mio numero. Niente, dai, ragazzi, mi dobbiamo spostare un attimino che mi hanno chiamato. Ma allenamento, Massimiliano. Perché lo sai cos'è? Ho già, io ho tempo di andare a Currino, Naggio. Nel senso che esco presto un bel la mattina e la sera rientro tardi, quindi me lo metto qua, mentre voi state modulando io sto passeggiando. E non sei stanco dal lavoro. Ecco, e se vengo io ti con in pinta? Non c'è il fisico, cla. Cura ammazza. A me, cura ammazza, bolasci. Che ammazza se farà da te, cla. Allora, c'è il fisico. Questo è meglio lo do io un fisico, allora. Cabo e bugnetta. Io ho gli addominali girati al contrario, Claudia, lo sai che la mia tartaruga è incinta, quindi... Vabbè, io c'ho un'altra cosa girata al contrario. Oh, a me mi aveva detto che faccio io, c'ho il largo addominali, Non nasce addominali io, no, e l'unduttore è incinta. Allora, già va bene, già va bene. Lui è qua a noi, a camminare, qua a caridare. No, io clamo, sinceramente, quando ritorno vedrai, cavolo. No, comunque mi ha giocato un biglietto, andata, ritorno, clamo. Parto il 5, ritorno il 25, 43, una cazzata in aereo. Te l'ho detto un'altra volta di guardare quelle offerte, cazzo, poi ci ti batto di cuscì. Ma l'ho fatto prima, capito? La dopo come giorno stessa, perché mi sono in quattro. Perché ce n'è un bel offerte, un bel. Adesso, vabbè, solo per questa cosa così puoi andare... perché c'è un'operazione e quindi è tutto programmato, però adesso per il momento non ci possiamo spostare da nessuna parte. Lo so, io sì perché sono agevolato per l'operazione. Si conferma, vai già. Ma penso che devi fare qualche certificato per viaggiare. Non lo so se è così senza un'autocertificazione ti fanno viaggiare tu. No, c'ho i documenti che l'impegnativa dell'ospedale, tutto quanto, perché non c'ho problema, capito? Quando sono partito a Genere con Emanuele, eravamo a Bologna per andare a prendere un altro treno, praticamente ho chiesto alla polizia che era ferma lì. Che non manco mi fermavano, penso un po', non chiedevo niente, ed era arancione la zona, quindi. E mi ha detto, dove il diretto? Sta andato a lungo per operarmi all'ospedale. Ok, prego. E non ti hanno chiesto niente, Tony? Nulla, là, zero. Poi dirò che Maruè non niente. No, se non gli prendi tu non devo domandare a nessuno, va bene. Perché adesso è un casino, questa cosa è un casino. Devi avere veramente tutto in regola per poterti spostare. Vabbè, ma è meglio così, dai. Avanti, Massimiliano. Ehi, anche noi qua, noi per andare a lavorare ci abbiamo l'autocertificazione perché andiamo in vari comuni, capito? Quindi da un comune all'altro abbiamo i fogli. Per chi sta lavorando, per chi come magari Tonino deve andare a fare questa operazione, quindi problemi non ne ha. Però se uno tipo come te si deve spostare, devi avere un motivo proprio valido, perché se ti fermano i suoi casini. No, Giandallugo, io mi sono andato giù a Lifunti da te ieri, cioè ieri stamattina, e ho fatto quel... ho mandato su quel pacco e basta, ma sono entrato a casa, non c'è andato lungo io. No, vabbè, io dico te come altre persone in generale, ecco. Beh, certo che sì, certo che sì. Gianni e mica, sempre andando e tornando, dal nord al sud. E allora? No, io ho smesso di viaggiare, mi sa che ho smesso. Oh, sono contento, Sassari? Bisogna vedere, dai, c'è una risposta. Vabbè, in ogni caso sono contento, dai, almeno a Vigna detto là, a rottura in balle qua già, l'ho fatto per 30 anni io, andando tu rendi, per carità, che schifo. Va bene, avanti Tony. Comunque anche all'aeroporto me lo farò fare la tua certificazione, non è la prima volta, è quando sono andato a gennaio. Quando può pegare dei voti, fumato, eccetera, eccetera. E poi avevo anche tampone, ma non ho problemi. Tonino, dimmi tutto. Qua che ho visto stare a Master Cruise su quei siti baracchino amico, eccetera, eccetera. C'era un coso, c'era un microfono uguale al mio, 80 euro stava là. È peggio vecchio, peggio lì, dov'è? Fuori però. È in continente. Quanto 80? E io ho fatto. Cazzo, ma dopo gara a me. No, io ho fatto molto meno. Ma è nuovo, veramente nuovo. Molto bello. Ho messo l'asta, mi ha parlato l'asta sua, Danilo poco fa, Massimiliano. Gliel'ho sostituita. Che bello. Danilo è un amico, perché il prezzo è quello che ha detto Gianni. Anzi, 80 è anche buono, se no è anche 100 euro. No, capito. Infatti, è lui che l'ha pagato un po'. Già, che microfono è? No, parliamo sempre di salito, capito. Cioè, ce ne sono gente che lo vende a 80, ce n'è gente che lo vende anche a 100. E a 40, 50 euro è regalato. Oh già, ma è quello che c'ha lo speeder, è stato rosso. Ehi, c'ha detto Master Cruise col tasto rosso, quello che c'ho io, uguale. Ma tu già c'hai due strumenti o uno? Uno. E io ne ho due però. Vabbè, quello lì c'era un altro modello, il mio ha uno strumento solo, classico. Questo è il classico che ti ho detto, Master Plus Classic, c'ha due strumenti, modulometro e lo strumento dell'eco anche. Perché quello è il primo modello che hanno fatto qua. Il primo questo, eh? E io, poi hanno fatto quello che c'ha Gianni che c'ha uno strumento solo. Vabbè, e come mai l'hanno fatto prima due strumenti, invece di fare uno prima a uno strumento e poi a due? Per risparmiare. Bravo. Ah, riuscì, vabbè, comunque. Questo ha due strumenti. No, io l'ho pagato poco. Vabbè, nuovo. Addirittura mi ha dato anche l'altra asta di riserva. Nuova, già con la capsula pronta. Va bene. Franco, non c'è più. No, Franco ha detto che lo stavano chiamando, doveva scendere giù. Ah, cappa. Allora mi sono distratto nel distrarmi. Vai, Tony, vai. Cappa. Va bene, no, ma dopo ce lo spazzolo io su quel posto là, già. Già se trovo qualcosa posizione. Ehi, a poi lo puoi collegare a quell'apparecchio anche, oltre che al garage. Vabbè, mi fa uno spezzone, se non sono gli stessi attacchi, se non mi ricordo che attacchi c'è, ma mi pare che c'ha quelli del garage, quell'apparecchio lì. E stamattina mi stavo innamorando col mio alimentatore, muori a tutti i costi. Il Galaxy, ma era bravo, lascia perdere. Comunque io ne sto vendendo uno, Super Sidekick, Sidekick, 200 euro. A me non mi interessa. Va che tu non lo devi manco per 50. Dopo che l'ho revisionato, no? Ah vabbè, ma diciamo che a quella cifra non te ne comprerebbe nessuno già. Ma pure Girumoni a 150 non viene nessuno. Ma tu non sai perché gli ho detto così, e lo so che puttana che me l'avete due. Ah! ho capito, no? Ehi, aspettate un attimino che c'è qualcuno che vuole entrare, avanti Bruno. No, sto cercando di capire se c'è stato che c'è stato in radio. Io senti, c'è passo Bruno. Sì, ma avevo una radio bella, ma il microfono male. La radio è sempre bassa, vorrebbe per te già? E anche da me è un po' bassino di radio, ma è una radio normale, dai. Hai messo l'eco però, ci dice per lo stesso, a livello a Giulio. Non hai radio, c'è segnale Santiago 8, radio 0. Non arriva qua, è mai passo qua. Eia, no, il segnale c'è, ma la radio è bassa. Avanti Massimiliano. Eia, anche io lo ascolto basso, non so manco chi è, boh. Dovrebbe essere Bruno, a quanto ho capito, e ha chiamato Gianni, che sono vicini di casa. Ce lo sentiamo, c'è bisogno di chiamare Gianni. Anche vicino a me? Vabbè, a me non è vicino, ma arriva Santiago 8, no? Che non arriva. Però la radio è molto bassa. A me arriva 9.20 però la radio più pio. E vabbè, me l'hai attaccato, io arrivo di 9.20, però sto vicino. Basta che chiami, già lo sentiamo tutti, non c'è bisogno di chiamare Gianni. Avanti già. Vabbè. Lui ha chiamato Gianni perché sa che sono vicino. Avanti Bruno di nuovo, vediamo un pochettino. È uno Zodiac, no, ma Zodiac che non ne ho mai avuto. Pensavo che fosse se non per qualcosa del genere, per regolare la radio. Ma non ho mai avuto uno Zodiac io. Cos'è il tuo Zodiac? È la marca di un baracco. Ah, non del microfono. E che Zodiac è? L'ho avuto oggi così io. Sì, no, io Zodiac male. Bruno! Io ho avuto un po' di Lafayette, Intec, grandi musulmani, di tutti di Star Simpson, non ne ho avuto un bel, però Zodiac no. Poi Zodiac è come gli Inuiti, già, Zodiac e Poma, gli Inuiti sono in base, sono tutte e tre uguali. Ma Bruno, tu cosa c'è un base? Scusate, sono alla bassa. Eia, Bruno, forse lo sta regolando, dai. Probabilmente ha bisogno di un microfono amplificato sicuramente, per andare un po' più forte. Il Mikey Game com'è, Bruno? Non ne ha Mikey Game, mi sembra. Se il modello, quello che c'avevo io, non ne ha Mikey Game. L'Inuiti c'ha Mikey Game. Vabbè. Già entrerà, dai. Io non ho mai avuto lo Zodiac. Li ho visti molte volte, sai dove, da... Ma come si chiama quel negozio buio? Che era allucinante quando entravi. Da Danilo, non mi ricordo più come si chiamava nemmeno. Vabbè, li ho visti lì sempre di Zodia, che vivevano in Valuta. Grosso che non mi ricordo, vicino a dove c'era l'officina Marco 131. Vai Massimiliano. Acqua, scusa che stavo scrivendo un messaggio, là. KK. Melchioni. Minchione quello, Che poi vanno a portare anche negozi a Porto Torre, ma non ha durato molto. Boh, spento quel negozio, cazzo, per carità. Ogni volta che entravi bisognava entrare con la pila. Ehi, appariva dentro di quella grotta. Grandi cavi, è vero, ma grande roba, ma per il resto, boh, non è che era così, no? Piazza Rubugio, c'è un negozio. Riprendi Massimiliano, hai scritto questo messaggio, sì. Ehi, ho anche risposto, Cla. Caspita. KK. Io stavo un po' lucidando qua queste coordinate. Mamma mia, più da sciagosa. Mamma mia, come sto. Vabbè, vieni a prendere il 4.30, tanto devo mettere nella scatola. E non ci sta male qua, no? No, faccio un bruppio. Io. Sono 60 che è buttato lì, che appunto prendi il 4.30 e così lo fai andare tanto. Io solo metto dentro la scatola, lascio solo il Galaxy perché vuole tirare anche gli alimentatori e tutto, sennò no, non c'ho più posto davvero, dai. Poi già ti mando un abbasso, intanto penso a fine mese di iniziare a traslocare. Addirittura, bella mosca. Ehi, ehi, ehi, andata. Buono. Avanti, mi classi. Già. Ehi, yeah. Carta, fino a fine mese ne hai. Vabbè, poi mi ritirerò un paio di mesi, 2-3 mesi, il tempo di sistemare bene tutte le cose. E poi metterò le antenne, insomma, rimetterò tutto a posto, dai. Ma già, mica non si era fatti di conti, a fine mese se vi siamo chiami, mica il 23 oggi. Alla fine, ti ho detto il prossimo mese. Ah, ho capito, a fine mese io, capo di bugnetta. No, non ce la faccio, Massimiliano. Oh, vanno via i muratori venerdì, poi c'è da pulire, fare, capito? Poi già te lo dico su WhatsApp, vai. C'è da fare un sacco di cose, deve entrare l'elettricista per fare mettere i faretti fuori nel giardino, devo fare un sacco di cose prima di trasferirmi. E poi il motore del cancello c'è appiazzato. Vabbè, quello della bettuviera a me ne va il motore. Oh, Massimi, lo sai chi me l'ha fatto prendere? Fratello di Roberto Quadrato, Danilo. Ah, beh, com'è? 260 euro. Da 100 watt, così è. Non lo so, quanto pesa il cancello? In base al peso del cancello devi comprare il motore, non è comprare il motore cuscino. Sì, me l'ha fatto prendere, no, che è basso, è tipo quello che abbiamo noi qua, no? È lungo 3 metri, è basso, lungo 3 metri, scorrevole. Peso la cremagliera, 3,50 m di cremagliera e il motore, 260 euro, più va compreso. Eia, ma non hai capito, il motore va in base al peso del cancello, hai capito qua? Ma vedrà nuda se è basso, il peso, in base al peso c'ha il motore, ma comunque se mi stai dicendo che è basso così è leggerino, dai. Sì, è scatolato, ma si vedi, cosa? Scatolato a barre dritte, è semplicissimo, lo apre l'aria con un dito, scorrevole, leggero. Kappa, e vediamo, va, se no le facciamo la modifica, le aumentiamo, mettiamo il lineare anche lì. Ascolta, ma tu ne sai piazzare? No, se non piazzo io dici all'online. ma loro me la saldano la cremagliera, la staffa? Io ti posso saldare tutto, fare, ma il collegamento, ci vuole l'elettricista perché lì ci sono le fotocellule, noi cuscino. Capito, è tutto una maravaglia. Sono rientrato. Eia, Danilo. Kappa. E adesso vediamo. Venerdì quando vanno via loro, vediamo di impostare. Infatti Roberto quando ci voleva avvicinare perché in campagna lui ce l'ha piazzato lui. Avanti Danilo. Ma cosa Cla? Il cancello automatico? Eia, motore del cancello. Ah, ce l'ho. Te lo posso piazzare anche io il mio lo sono piazzato da solo. Oh, bene, allora poi ci accettiamo per telefono. Ehi, vediamo cosa ti dice Roberto, se no te lo piazzo io, uguale, non cambia niente. No, ma sicuramente non lo piazza Roberto, ecco, c'è un amico suo, viene lui, insomma, perché in campagna l'hanno piazzato loro, capito? No, ma è facilissimo da, sicuramente mi ha detto da piazzare, però io non sono del mestiere, non ho giù di bruciare il motore, no? No, a bruciare non bruci niente, basta che gli dai la corrente sua e le fotocellule le metti a livello. Quello è il problema, io il livello non lo conosco. Massimiliano, tu che conosci il livello? Vabbè, a mettere a livello non ve ne è problema, capito? Già vediamo come organizzare, dai. Ehi, fatemi andare, poi quando sono lì già lo so che siete disponibili, dai. No, Massimi, molto probabilmente ci serve la saldatrice perché ci va il gancio, la piastra col gancio per il cancello, capito? Comunque poi vabbè già te lo spiego meglio, vai, sennò no, non mi comprendi molto, davanti già. Kappa, c'è tutta la squadra che ti aiuta. Allora quelli di Napalo, io non voglio nessuno senza essere pagato. Ah, io voglio 200 euro, minimo. Qual è il problema? Sarete ricompensati, io non voglio niente da nessuno senza pagare, io pago. capito? Anche se qualcuno mi ha preso per pirocchioso, ma comunque pago. No, ma io vengo volentieri gratis, non ce n'è problema. La saldatrice ce l'hai subito, pronta, problemi non ce n'è. Saldiamo, facciamo. Kappa, va bene, Massimiliano. No, non sto scherzando comunque. Se serve un elettricista, tanto mi serve per mettere anche altre cose, deve fare altri lavori, quindi... Se ce l'abbiamo in casa è meglio, i soldi rimangono in casa, invece giammai niente lavora. Kappa, e ci abbiamo tutto, mo la moletta, motopicco, tutto va bene, mugla. Visto che si manca solo di denaro, un rito avremmo tutto, così è danno. Ehi, anche le bombe a mano abbiamo. Tornato. Bombe a mano? Ehi, anche quelle lì ci abbiamo, per fare i buchi per terra. E buscamene un paio di quelle, allora, mi serve. Un paio di colpi di picco e il buco l'abbiamo fatto, là. Dani, dammene una che la giudico lì, in distanza di chi ha giudito. No, lascia. È giusto per non perdere tempo, mi cucine la becio subito. No, poverino, sennò dopo rimane senza muri. Poverino, ha regalato, ne è stato un gabbo, altro poverino, ma... Avanti, Tony. Kappa, sono tornato. Così volevo dire, sono preso il pizzicato. Vabbè, sono di nuovo qua. Quanto hai metticato le bombe? Le bombe, queste le posso fare io. E Danilo mi sta vendendo bombe a mano, te ne dicevi? No, non ti piace un certo papà, lui. Vedo tutta la politica. Cazzo, ma la mocca. Ah, sai cosa mi ha giombigliato da poco, fra? Ehi, Nara! Ehi, c'è l'offerta, l'ho preso al volo. Un motore grande 220 che ha due pietre per scaricare, eccetera, che sono convinta. Ma tu mi avrei dato a dirmi. Sì, intanto non è il materiale, ancora volendo 30 chi si armati, fra poco scoppiani. Per carità la roba che c'hai, che... Oi. Avanti, Massimi. Ehi, va bene. Niente, là, io devo abbandonare. Ok, devo abbandonare il gruppo. Quindi me ne passo quel Rix e devo scendere giù, che c'è la ragosta sta cucinando. Io faccio un battato, posso venire? E parmigiano? Sì. No, ve ne è problema, cara, di allusare. Ma questa non l'ho mai fatto mangiare lumache, ma non c'è andato, babbo. Non è tempo ancora, è andata a 15 di giorni e poi iniziano. Gli altri vostri mangiare gioca. Questa maniera dai gioca, te la metti, questo è buono. E poi ne aveva un bel. Minchia, ma che l'ha fatto a lui? Tutte e due le facciamo, Cla. Tutte e due, già ti faccio succhiare quest'anno, no? Infatti l'anno scorso mi fatti animare i burri barri, a forza di succiare con i miccioni. Va bene, dai, signor, saluto a tutta la ruota e non riprendo più, dai. Ciao. Ciao, Massimo, un abbraccio, già ci aggiorniamo dopo su Moto Zappa, vai già. Ehi, ciao Massimiliano, dai. Buona mangiata di Aragosta, come la fai, la catalana? Ah, la panata è fritta, lui la fa, la catalana non la sa fare. Allora perché non la fa? Ciao Massimiliano, fuori sì. Ciao Massimiliano, la brucia. Ciao. Sta chiudendo praticamente il vestito di Aragaia e lui è lì in mezzo ai bidi. Kappa. E quindi Tony, ne hai bigliato un altro di strumento, non ti basta che ci fai? Aspetta, non è finita qua. Allora, siccome tutto quello di la strumentazione che c'aveva rischio, eccetera, che mi sono chiusa fuori, devo tutto portato in casa. Ho fatto a posto, l'ho messo nei quei mobili che mi sono fatto. Quello invece che ho preso l'ultimo, l'ho sbattuto nell'armadio in camera da letto, di fatto. E poi mi sono preso due, ancora confettore cicibate, e due lingue sorveglianza, mi sono fatto tre camere in una. Bello. Ascolto lì una domanda, col permesso degli amici. Ma se dovessimo mettere un faretto fuori che si accende quando fa buio, consuma? No, quello metti a letto, non consuma nulla. Cosa hai messo? Un interruttore crepuscolare o metti quelli che quando passa la persona si accende? No, non deve bastare nessuno, basta che quando fa buio si accenderà solo lui e quando inizia a fare giorno lui si spegnerà solo. L'interruttore crepuscolare ce l'ho già io, ce l'ho nuovo. Ascolta, il faretto lo si prende da Bicon? Da Bicon, anche un faretto piccolo già ci sono. Ah, ho anche fatto i pediatri di quel tipo di mio. e poi ci sentiamo per telefono, ci mettiamo d'accordo, riusciamo a fare queste cose, Tony. Io non sono capace, non voglio succedere a tutto. Poi quando rientri magari dalla che ti sei ripreso, gli facciamo queste cose, pagando, non a gratis. Ma queste cazzate. Niente, c'è il ponticello dalla base praticamente, io sono vicino a poi buttare la lampadina, la cazzata dai a metro. Ok, ho tutto fatto io, tutto. E vabbè, tutto quello che hai si quantifica e si fanno i conti, non ti preoccupare. Tanto fretta non ne ho, capito? Già c'è il neon fuori, per il momento rimane acceso quello, però voglio mettere i faletti fatto bene, beh, io voglio luce come dici tu, ci vuole luce la notte, non si sa mai. Ma il fatto è che tu la luce la paghi, io la luce non la pago. E neanche io la pago. Hai visto quanta luce c'ho io nel cortiletto? Là. E a chi ti sei collegato? Io? A nessuno. Io prendo tutto quello che mi dà la natura. Tu c'hai i pannelli solari? Io c'ho l'impianto a isola fuori. Ah, ecco. Già è buono. E anche il scaldabagno. Tutto qua. No, solamente le luci esterne c'ho io. C'ho l'impianto a isola ibrido. Ibrido, già lo sai come funziona, sì? No, non ce l'ho presente. Pannelli fotovoltaici e eolico. Ah, ho capito. Allora io perché non pago la luce, la notte lascio tutta la notte con il sensore acceso per i cani. Ho detto tutto. Ma sono Antonino, va a un campo di ghiaccio, grazie per la luce, che vuoi giù a cassi. No, ma comunque, a parte gli scherzi, da quando sto abitando qua in campagna io ho sempre quella funzione lì, all'esterno. Quindi la luce di fuori io non la pago, in poche parole, perché ho tutto quanto l'impianto solamente per la luce esterna. Va bene così, ottimo per la truppa. No, io c'ho, devo fare l'impianto notturno, diciamo, così come ha detto Tonino, che si accende quando fa buio e si spegne quando fa luce. Per adesso c'ho tutto a gas, anche lo scaldabagno, tutto, non ne ho bombola io nella cucina. Tutto a gas di caldaia. Infatti io ce l'ho così, col crepuscolare. Appena arriva quella tensione di buio, parte il crepuscolare e si accendono le luci. La mattina quando c'è quella tensione di luce, si spegne, parte il crepuscolare e si spengono le luci. E durante il tempo quindi iniziano a caricare le batterie. C'è una cellula, capisco che com'è. Si chiama crepuscolare perché il crepuscolo ovviamente all'alba si spegne e la notte fa buio, si accende pure per regolare sulla tensicità, se è più forte o di meno, capito? No, questo che c'ho a 12 volt io, no, non è a regolatore, si può mettere ma non ho voglia di assillarmi ad aprire, a stressarmi forte, perché bisogna interrompere una linea e mettere il trimmer. No, comunque fa tutto quanto da solo. Un mio collega l'aveva bruciato uno. Collego io, la sua collega ci ha buttato la fase e non entro vicino, furione. Cazzo, ma fase è fase. E dentro la pedistante bruci la fase, ha fatto un casino che ha paccareggiato. Vabbè, ma comunque, per ringraziare che non l'ha pagato, non è che colpa più di tanto, ma perdo le spalle andare a comprare un altro e ripiantarlo. Ma Guido che ha fatto l'impianto vi dai cura? Dice che ha fatto l'impianto? In quella scuola? No. Eravamo tiri da papà. Per carità, cazzo. Ma come va, stai attento. Il perigo incendiasse tutto. Ui. Bene ragazzi, dai, io vado a portare il cane che sono le 8:20, se ci siete riprendo dopo. Ok, vai già. Già adesso dal contatto. Ok, io senti, mi sposo che mi sono preso un po' di fettine di carne di cavallo a dondolo, così almeno. E basta, e faccio a craccare i cani. Ok, va bene, dai, buon proseguo. Ciao Claudio, ciao Danilo, sono Terrazzo, ciao Gianni, ci ascolto, abituale a Sottoni. State bene, quarantena con la pandemia, più tardi, ciao ciao. Ciao Tony, dai, ci aggiorniamo dopo se ci siete. Ciao Dani, già 15-20 minuti e sono di nuovo qua, ciao. Ciao ciao, ci sentiamo sia a Tonino che a Claudio, dai. Ciao Gian, dopo vado a portare il cane. Ok dai, ciao Gianni, ciao Tonino e ciao Claudio, perché io fra un po' vado a mangiare. Dai, se ci vediamo, ci sentiamo domani, se no la prossima volta. Ciao. Ciao, ciao Dani, ci ciao, sentiamo Dani. Anche al telefono, a serata. C'era Bruno, vediamo un po' se c'è Bruno. Niente da fare. È rimasto? C'è qualcuno qua? Guarda. C'è qualcuno qua? Attenzione canale 10. Attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto. Hola. Chicos. Hola. Hola, hola, hola. Ero chico, aspetta che sono entrato adesso col cane. Mi ha appena acceso? No, no, questo è acceso già da poco fa, stavamo chiacchierando, aspetta che mi preparo tu, sono entrato adesso. Io oggi mi avevo fatto uscire tardi, ma un cazzingato, l'ultimo. Vabbè, non è, c'era questo gran lavoro, ma sempre imprevisti, mi so. Tanto, ma voi anche fuori zona fate?